Capitolo 3. Il reverendo Patrick Bronte nacque nel County Down, in Irlanda. Suo padre, Hugh Bronte, rimasto orfano in tenera età, dal sud dell'isola era risalito verso il nord e si era stabilito nella parrocchia di Haderg, nelle vicinanze di Loughbrickland. La tradizione familiare dice che, per quanto modesta fosse la condizione finanziaria di Hugh Bronte, egli discendeva da un'antica famiglia. Ma né lui né i suoi figli e nipoti si preoccuparono di fare ricerche in proposito. Si sposò in giovane età, generò 10 figli e li crebbe con il reddito ricavato dai pochi acri che coltivava. La numerosa famiglia spiccava per grande forza fisica e per indiscutibile bellezza. Ancora oggi, in tarda età, Mr. Bronte colpisce per l'aspetto fisico. Di statura al di sopra della media, si notano in lui il portamento eretto e la testa nobilmente modellata. In gioventù deve essere stato di una bellezza più che notevole. Nato nel giorno di San Patrizio, il 17 marzo 1777, fin dai primi anni diede segno di una prontezza di intuizione e di intelligenza al di sopra del comune. Inoltre era dotato di una buona dose di ambizione. Troviamo la dimostrazione del saldo buonsenso e della capacità di preveggenza da lui posseduti in quanto sto per aggiungere. Sapendo che suo padre non poteva dargli un aiuto finanziario per conseguire una migliore posizione sociale e che perciò poteva contare unicamente sulle proprie forze, quando aveva solo 16 anni aprì una scuola elementare a pagamento per i ragazzi del vicinato e la mandò avanti per 5-6 anni. Più tardi divenne precettore in casa del reverendo Mr. Tighe, rettore della parrocchia di Drumgooland. Avendo messo insieme i fondi necessari, nel 1802, a 25 anni, si recò a Cambridge, dove nel luglio venne iscritto al St. John College. Dopo circa 4 anni di frequenza ottenne la laurea con onore e, ricevuta l'ordinazione ecclesiastica, iniziò la carriera come curato nell'Essex. E da lì, una quindicina di anni più tardi, si trasferì nello Yorkshire, dove a tutt'oggi risiede. Le varie tappe percorse lungo il cammino della vita, di cui qui sopra ho tracciato un brevissimo riassunto, dimostrano quanto forte ed eccezionale sia stato il carattere di un uomo capace di proporsi in giovanissima età uno scopo lontano e di perseguirne l'attuazione in modo risoluto e indipendente. Siamo in presenza di un ragazzo di 16 anni che si separa dai suoi, deciso a mantenersi da solo e, ripudiando la lunga tradizione di una gente dedita al lavoro dei campi, si cimenta con gli impegni di una carriera intellettuale. Ho motivo di credere, in base a quanto ho udito, che Mr. Tighe, avendo concepito un grande interesse per il precettore dei suoi figli, lo abbia probabilmente aiutato, non solo dirigendo negli studi, ma anche dimostrandogli l'opportunità di procurarsi un'educazione universitaria e consigliandolo su quanto dovesse fare per essere accolto in una delle due grandi ed esclusive università inglesi. Ormai nella pronunzia di Mr. Bronte non vi era più traccia dell'originale cadenza irlandese. La discendenza celta non aveva improntato né i lineamenti netti di stampo greco né l'ovale allungato del viso. Ma anche così, il presentarsi senza garanti ai cancelli del St. John College a 25 anni compiuti, con l'unica esperienza di vita fatta fino a quel momento in un ambiente molto chiuso, dimostrò non poca forza di carattere e un vero sprezzo del ridicolo. Durante gli anni di Cambridge si iscrisse alla lista dei volontari, che a quel tempo venivano schedati in tutto il paese pronti ad essere arruolati per opporsi alla temuta invasione dei francesi guidati da Napoleone. L'ho sentito accennare Lord Palmerston come persona frequentemente avvicinata da lui durante le esercitazioni militari alle quali i volontari si dovevano sottoporre. Dopo la laurea lo troviamo sistemato come curato presso la parrocchia di Hartshead, lontanissimo dal paese natale e da tutti i parenti e conoscenti irlandesi, con i quali, a dire il vero, non desiderava mantenere alcun contatto e che, a quanto mi consta, egli non tornò mai a visitare dopo essere stato ammesso a Cambridge. Hartshead è un piccolissimo villaggio a est di Huddersfield e di Halifax. Grazie alla sua posizione in cima a una specie di collinetta attorniata da un antico bacino circolare completamente prosciugato, domina una vista magnifica tanto verso l'interno quanto verso il mare. Mr. Bronte vi abitò 5 anni e, mentre vi svolgeva le mansioni di parroco, conobbe, corteggiò e sposò Miss Maria Brownwell. Maria Bronwell era la terza figlia di Mr. Thomas Bronwell, commerciante di Penzance. Il cognome di sua madre da nubile era Carne. Sia da parte del padre che da quella della madre, le ragazze Branwell erano di un'origine abbastanza elevata da permetter loro di frequentare la migliore società del luogo. Mr. e Mrs. Branwell, con i loro quattro figlioli, vi era anche un maschietto, devono aver vissuto in una condizione ancora primitiva, quale la descrive il dottor Davy nella biografia del fratello, Sir Humphry Davy, che, noto pioniere nel campo della ricerca chimica, morì a Penzance nel 1778. In questa stessa città, la cui popolazione era di circa 2000 anime, esisteva un unico tappeto. Il pavimento delle stanze veniva spruzzato con sabbia di mare, non vi si sarebbe trovato una sola forchetta d'argento. E più in là. In quei tempi, quando i nostri possedimenti coloniali erano pochi, il contingente fisso richiesto dall'esercito e dalla marina relativamente assai scarso e la necessità di nuove leve per le professioni dotte quasi non si faceva sentire. I figli cadetti dei gentiluomini venivano avviati a una qualche attività commerciale o alla pratica di un lavoro artigianale da cui non derivava alcuna perdita di casta. Il figlio maggiore, quando le circostanze non gli permettevano un ozioso avvenire di gentiluomo campagnolo, era iscritto all'Università di Oxford o a quella di Cambridge per essere abilitato alla pratica di una delle tre professioni liberali: ecclesiastica, legale o medica. Il secondogenito veniva inviato come apprendista presso un chirurgo, un farmacista o un avvocato, il terzogenito da un artigiano, orologiaio o fonditore di vasellame di peltro, il quarto presso un imballatore o uno spedizioniere o da un merciaio e così via se ve ne erano altri da mettere a posto. Dopo aver compiuto il loro apprendistato, i giovanotti quasi invariabilmente si recavano a Londra per perfezionarvi le rispettive competenze. Di ritorno a casa, incominciavano a lavorare in proprio, senza venire esclusi dalla frequentazione di quella che oggi diremmo la casta gentilizia. La vita di società consisteva principalmente in uno scambio di visite, il cui rituale era diverso da quello odierno. I pranzi di etichetta generalmente venivano dati solo in occasione delle grandi feste. A Natale era permesso di concedersi speciali piaceri a tavola e intensificare gli scambi conviviali. I trattenimenti si susseguivano a catena sotto forma di inviti al tè o a cena. All'infuori delle occasioni solenni, i rapporti sociali si limitavano a semplici riunioni informali che avevano inizio verso le 15 e si protraevano intorno al tavolino del tè fino alle 21. Lo svago consisteva generalmente nel giocare a carte in gruppo. I ceti umili erano di una estrema ignoranza. In tutte le classi sociali la superstizione dominava. Persisteva la credenza nelle streghe, l'accettazione delle manifestazioni soprannaturali e delle apparizioni mostruose era generale. Non esisteva una sola parrocchia nella regione della Mounds Bay che non avesse la sua casa infestata dagli spettri o una qualche località il cui nome non andasse unito a una storia di orrore. Ricordo che quando ero ancora ragazzo, nella migliore via di Penzance si vedeva una casa disabitata che aveva fama di essere infestata dagli spiriti. Quando i giovanotti vi passavano davanti dopo il cadere della notte, affrettavano il passo col cuore in gola. Nelle classi medie e in quelle alte l'interesse per la letteratura era assai scarso e quello per la scienza quasi nullo. Gli svaghi, universalmente preferiti, erano raramente di genere intellettuale o anche semplicemente di un livello dignitoso. La caccia a cavallo o a piedi, la lotta corpo a corpo, i combattimenti dei galli erano quanto deliziava la gente e tutte queste attività si concludevano con solenni bevute. Il contrabbando veniva praticato su vasta scala, l'ubriachezza cronica era generalizzata, il livello morale era dei più bassi. E mentre col contrabbando accumulavano la ricchezza impegnandosi in avventure ardite o spericolate, con l'ubriachezza e lo sperpero conducevano alla rovina le più rispettabili famiglie. Ho riportato i particolari qui sopra perché mi pare che debbano contribuire alla comprensione del carattere di Miss Bronte, la cui mente vigorosa e la vivida immaginazione devono avere ricevuto le loro prime impressioni dalla viva voce delle domestiche che in quella semplice compagine familiare, vivendo a stretto contatto con i padroni durante la maggior parte della giornata, narravano le tradizioni e riferivano i pettegolezzi del villaggio. Da Mr. Bronte, che, benché i suoi rapporti con i figlioletti a quanto sembra siano stati assai inibiti, aveva un peso Di ricordi della vita trascorsa in Irlanda e a Cambridge in circostanze senz'altro peculiari, e ancor meglio dalla zia, Miss Brownell, che quando Charlotte aveva 6 o 7 anni era venuta da Penzance a vivere alla canonica per prendersi cura dei bimbi della defunta sorella. Questa zia di età alquanto maggiore di Mrs. Bronte aveva vissuto più a lungo di lei nell'ambiente sociale descritto da Mr. Davis e lo conosceva bene. Anche se nella famiglia Branwell la violenza e la sregolatezza non trovano posto. Apparteneva alla setta metodista e fin dove giunge la mia informazione riscontro che una gentile e sincera pietà religiosa improntava il suo carattere di vera raffinatezza e purezza. Suo padre, Mr. Branwell, a quanto diceva in famiglia, era dotato di vero talento per la musica. Sia lui che la moglie, morti a un anno di distanza l'uno dall'altro, rispettivamente nel 1808 e nel 1809, erano vissuti abbastanza a lungo da vedere tutti i loro figliuoli cresciuti. Maria aveva allora 25 o 26 anni. Ho avuto il permesso di prendere visione di 9 belle lettere scritte da lei a Mr. Bronte durante il breve periodo del loro fidanzamento nel 1812. Traboccano di espressioni di tenera grazia e di femminile modestia, improntate dalla profonda religiosità che caratterizzava tutta la sua famiglia. Ne citerò uno o due passi che aiuteranno a capire che genere di persona sia stata la madre di Charlotte Bronte. Ma prima devo dire in che circostanze questa signora, nata in Cornovaglia, incontrò in quel di Loughbrickland l'ex universitario di Cambridge. All'inizio dell'estate del 1812, quando poteva avere sui 29 anni, Maria Branwell andò in visita da un suo zio, il reverendo John Fennel, che a quel tempo aveva aderito alla Chiesa d'Inghilterra, ma precedentemente era stato ministro metodista. Ora viveva nelle vicinanze di Leeds, poco lontano da Hartshead, dove Mr. Bronte era parroco. Chi conosceva parlava di lui come di un uomo bellissimo, pieno di entusiasmo irlandese e dall'irlandese propensione a innamorarsi facilmente. Miss Mary Branwell era di corporatura minuta, non bella, ma molto elegante, anche se i suoi abiti erano di gusto quieto e semplice, in sintonia con il suo carattere. Alcuni loro particolari fanno pensare allo stile preferito dalla figlia quando descrive il vestiario delle sue eroine predilette. Mr. Bronte fu subito attratto da quella delicata, gentile personcina e questa volta si dichiarò innamorato definitivamente. Nella prima lettera scritta gli in data 26 agosto, lei dà l'impressione di essere quasi sorpresa di ritrovarsi fidanzata e fa allusione a quanto sia breve il tempo della loro conoscenza. In quanto segue vi sono frasi che ci fanno pensare al detto della Giulietta shakespeariana: ma abbi fiducia in me, signore, mi dimostrerò più fedele di quelle che meglio di me conoscono l'astuzia. Accenna al felice progetto di una gita all'Abbazia di Crystal, alla quale nei soleggiati giorni settembrini prenderanno parte lo zio, la zia e la cugina Jane, fidanzata quest'ultima ad un Mr. Morgan, anch'egli ecclesiastico, oggi tutti defunti, eccetto Mr. Bronte. Nessuno dei suoi fece obiezione al fidanzamento. Mr. e Mrs. Fennel lo sanzionarono di buon grado. Il fratello e la sorella sembra che dalla lontana Penzance lo approvassero senza riserve. In una lettera del 18 settembre, ella scrive: già da parecchi anni sono perfettamente padrona di me stessa, libera da qualsiasi controllo. Le mie sorelle, che hanno parecchi anni più di me, e anche la mia cara madre, finché è vissuta, mi hanno sempre consultata prima di prendere decisioni di una qualche importanza, tanto poco dubitano dell'assennatezza del mio giudizio e del mio modo di agire. Forse lei sarà indotto ad accusarmi di vanità per queste mie parole, ma prenda in considerazione che non le scrivo per vantarmi. Molte volte ho considerato questa mia sicurezza come uno svantaggio e sebbene ringrazi Dio che essa non mi abbia indotto in errore fino ad oggi, tuttavia, sentendomi dubbiosa o incerta, spesso ho provato il desiderio di avere una guida, un consigliere a cui rivolgermi. Nella stessa lettera dice a Mr. Bronte di avere informato i suoi del loro fidanzamento e del fatto che non li avrebbe rivisti così presto come ne aveva avuta l'intenzione. Con lo stesso corriere, lo zio, Mr. Fennel, scrisse alle nipoti tessendo l'elogio di Mr. Bronte. In quel tempo il viaggio da Penzance a Leeds era molto lungo e assai costoso. Gli innamorati non avevano denaro superfluo da spendere in viaggi non strettamente necessari e siccome Miss Maria Branwell non aveva più né padre né madre, sembrò tanto corretto quanto opportuno celebrare il matrimonio in casa dello zio. Non vi era alcun motivo di prolungare il fidanzamento. Avevano tutti e due oltrepassata la prima giovinezza e possedevano mezzi sufficienti per sopperire alle loro necessità. Il beneficio di Hartshead è indicato nell'annuario del clero come dotato di una rendita annua di 200 sterline. Lei aveva 50 sterline all'anno, lasciatele, a quanto mi dicono, per testamento da suo padre. Così, alla fine di settembre, gli innamorati incominciarono a cercare casa, visto che, a quanto suppongo, fino a quel momento Mr. Bronte era vissuto in pensione. Ogni cosa si svolse senza intoppi e giunse alla conclusione con pieno successo. La celebrazione del matrimonio essendo fissata per l'inverno successivo. Ma nel frattempo avvenne un fatto spiacevolissimo di cui Maria informa minuziosamente il fidanzato. Scrive: Suppongo che lei non si sia mai aspettato di diventare molto più ricco unendosi a me. Sono però spiacente di doverla informare che mi scopro più povera di quanto supponessi. Come lei sa, avevo mandato a prendere a casa i miei libri, i miei indumenti, eccetera. E sabato sera, circa all'ora stessa in cui lei scriveva narrandomi il suo naufragio immaginario, io leggevo e registravo le conseguenze di un naufragio realmente avvenuto, avendo ricevuto poco prima la lettera di una mia sorella, che dopo avermi informata della spedizione via mare del mio bagaglio, diceva che, causa una violenta tempesta, la nave si era incagliata sulla costa del Devonshire e che il mio baule era stato fatto a pezzi dalla furia delle onde. Tutto il mio piccolo avere, a eccezione di pochissimi oggetti, è stato inghiottito dal profondo abisso. Se ciò non sarà preludio di un qualche altro fatto spiacevole, non vi darò molto peso. È il primo inconveniente che registro dal giorno che ho lasciato la casa paterna. L'ultima lettera è in data del 5 dicembre. In essa Maria Branwell dice che lei e sua cugina hanno deciso di preparare la torta di nozze nella settimana successiva. E ciò dimostra che il giorno fissato per il matrimonio non poteva essere ormai lontano. Aveva mandato a memoria un bel piccolo inno composto da Mr. Bronte e aveva letto consigli a una signora di Lord Littleton. E li commenta con alcune osservazioni giuste e pertinenti, dando prova che oltre a leggere sapeva anche pensare. A questo punto Maria Branwell esce dal nostro campo visivo e non avremo più alcun contatto diretto con lei. Ne sentiremo ancora parlare indirettamente sotto il nome di Mrs. Bronte. Si tratterà di una malata prossima a morire, ma sempre paziente, serena e pia. La grafia delle sue lettere è elegante e chiara, accanto alle notizie spicciole di vita quotidiana, come per esempio la preparazione della torta di nozze, dice anche dei libri che ha letto o che sta leggendo, dimostrando una buona cultura. Pur lungi dall'avere l'eccezionale talento della figlia, le rare caratteristiche personali di Mrs. Bronte si riassumono in pochi tratti positivi, equilibrio e consistenza, sotto un velo tutto grazia e arrendevolezza. Il suo stile epistolare è corretto e scorrevole, come pure quello di un saggio sui vantaggi della povertà da un punto di vista religioso, scritto col proposito di farlo pubblicare. Come ho già accennato, si sposò in casa dello zio, nello Yorkshire, il 29 dicembre 1812, lo stesso giorno in cui venivano celebrate a Penzance le nozze della sorella Charlotte. Non mi consta che da sposata Mrs. Bronte sia tornata in Cornovaglia, dove ha lasciato un amabilissimo ricordo. I nipoti ne parlano come della loro zia prediletta, ritenuta da tutti piena di talento non comune ereditato dal padre, di pietà genuina ma non opprimente. Mr. Bronte rimase per 5 anni a Hartshead in qualità di pastore della parrocchia di Dewsbury. Là si sposò e là nacquero le sue due prime bambine, Maria ed Elizabeth. Ottenne poi il beneficio di Thornton nella circoscrizione ecclesiastica di Bradford, una di quelle grandi zone ecclesiastiche che hanno quasi l'importanza di un episcopato grazie al numero delle loro chiese o di quello dei fedeli che le frequentano. La chiesa di Thornton era in origine una piccola cappella di comodo, così indicata, perché in passato era stata costruita sull'orlo estremo di quella che allora era periferia per venire incontro ai parrocchiani che abitavano nell'entroterra. Pur essendo destinata al culto di rito episcopale, Era ricca di monumenti funebri dedicati a personaggi appartenenti alla setta non conformista. Tra questi vi erano quelli eretti alla memoria di Accepted Lister e del suo amico Dr. Hall, ambedue ministri di chiara fama che nel secolo XVIII vi avevano predicato e vi erano stati inumati. I dintorni di Thornton sono desolati e selvatici. Vaste aree di terra brulla, delimitate da muretti di pietra, salgono fino alle alture di Clayton. La chiesa è antica e romita, sembra volutamente lasciata in disparte dai grandi fabbricati della manifattura di proprietà di una ricca famiglia, i cui membri appartengono alla setta degli indipendenti e dalla solida cappella quadrata che si hanno fatto costruire aiutati dal contributo dei loro correligionari. Soggiorno quanto diverso dall'ameno Hartshead, che, prospiciente a una vasta pianura chiusa all'orizzonte dall'accavallarsi delle colline, vede passare sui suoi prati l'ombra delle nuvole e splendervi il dilagare della luce del sole. A Thornton nacque Charlotte Bronte il 21 aprile 1816 e in breve tempo seguirono Patrick Branwell, Emily e Anne. Dopo la nascita di quest'ultima, la salute di Mrs. Bronte cominciò a declinare. Là dove i mezzi finanziari sono limitati, il provvedere teneramente alle necessità di molti bimbetti richiede un duro lavoro. Il cibo e il vestiario sono tanto difficili da garantire quasi quanto la necessaria attenzione richiesta dal seguirli, curarli, consolarli, farli giocare, simpatizzare con loro. Quando un ulteriore trasferimento, il 25 febbraio del 1820, Mr. Bronte occupò la canonica di Haworth, Maria, la maggiore dei sei bambini, aveva poco più di 6 anni. Quelli che la conobbero allora la descrivono come una donnina assai più seria, pensosa e quieta di quanto solitamente fossero le sue coetanee. Gli anni dell'infanzia non furono per lei infanzia vera. Difficilmente coloro che sono in possesso di rari doni interiori sanno godere la gioia di quel felice periodo che non conosce preoccupazioni. La forza interiore che li domina vieta di abbandonarsi, come sarebbe naturale, alle impressioni che vengono dall'esterno e costituiscono, secondo la definizione dei filosofi tedeschi, la vita oggettiva. Per tempo la loro è vita soggettiva, interiorizzata e guidata dalla riflessione. La piccola Maria Bronte era delicata e di corporatura minuta, il che faceva risaltare ancor più la sua straordinaria precocità intellettuale. Deve essere stata compagna e aiuto alla madre nelle cure date ai più piccini e in alcune semplici faccende domestiche. Mr. Bronte era molto impegnato nel suo studio, inoltre non aveva naturale simpatia per l'infanzia. La comparsa ripetitiva di nuovi bambini sulla scena domestica lo indisponeva, sia perché era causa del crescente esaurimento della moglie, sia perché inceppava il normale ritmo della vita familiare. La canonica di Haworth è, come ho già detto nel primo capitolo, una oblunga casa di pietra. Guarda dall'alto il villaggio che scende a valle lungo un ripido pendio. La porta d'ingresso si trova direttamente di fronte alla porta ovest della chiesa, da cui dista circa 100 yard. Di questo spazio, un 20 yard o giù di lì sono occupate dal giardino erboso, che ha un'area a malapena più vasta di quella della casa, e sia la casa che il giardino sono chiusi su 3 lati dal cimitero. L'abitazione ha 2 piani di 4 stanze ciascuno. Quando i Bronte ne presero possesso, scelsero l'ambiente più vasto a sinistra dell'ingresso per il soggiorno, mentre quello a destra fu preso da Mr. Bronte che vi fece il suo studio. Sul retro vi erano la cucina e una specie di vasta dispensa con il pavimento di pietra. Di sopra si trovavano le 4 camere da letto, tutte di eguale ampiezza, con in più un piccolo ambiente che apre in cima alle scale, le quali, partendo dal corridoio o lobby, come diciamo noi settentrionali, a pian terreno, si trovano esattamente di fronte alla porta d'ingresso. Secondo la piacevole moda dei tempi andati, vi sono sedili di legno nel vano di tutte le finestre. Evidentemente la canonica fu costruita in un'epoca in cui il legname abbondava, lo dimostrano la massiccia ringhiera delle scale, i numerosi rivestimenti di legno alle pareti, le pesanti imposte delle finestre, lo stanzino in cima alle scale venne assegnato come soggiorno ai bambini. Essendo così piccolo, non fu chiamato nursery come il vasto appartamento dove si svolge la vita dei piccini nelle case borghesi. Di fatto non vi era nemmeno un caminetto che permettesse di scaldarlo. Le domestiche, due rozze e prodighe sorelle dal caldo cuore affettuoso, che ancora oggi non sanno parlare di quella famiglia senza sparger lacrime, chiamavano la stanzetta lo studio dei bambini. All'età della studentessa più attempata poteva essere allora sui 7 anni. Nessuno degli abitanti di Haworth era veramente povero. Molti lavoravano nelle vicine manifatture, alcuni possedevano piccole fabbriche ed erano manifatturieri su modesta scala. Vi erano anche alcuni bottegai che offrivano generi di prima necessità. Ma per gli acquisti di cancelleria, per i libri, per i capi di vestiario, per le derrate raffinate, per le cure mediche e per i consigli legali era necessario recarsi a Keighley. Vi erano parecchie scuole domenicali. Nell'istituirle erano stati all'avanguardia i battisti, i wesleyani li avevano seguiti a ruota, la Chiesa d'Inghilterra era giunta alla retroguardia. Era stato il buon Mr. Grimshaw, amico di Wesley, a far costruire un'umile cappella metodista sull'orlo della strada che conduce alla brughiera. I battisti, allora, avevano innalzato il loro luogo di culto a poche yard dalla strada maestra. E subito i metodisti avevano provveduto a far costruire una seconda cappella di proporzioni maggiori e ancora più indentro rispetto alla strada. Mr. Bronte fu sempre in rapporti cortesi e amichevoli con i pastori delle altre denominazioni religiose nel loro complesso, ma individualmente la famiglia si mantenne appartata, intervenendo solamente quando gli abitanti del villaggio richiedevano un qualche intervento diretto. Si tenevano molto stretti gli uni agli altri, ricordano quanti avevano avvicinato Mr. e Mrs. Bronte recentemente venuti a vivere fra loro. Penso che molti yorkshireani troverebbero da ridere sulla pratica delle visite pastorali. La loro accigliata indipendenza si ribellerebbe al pensiero che qualcuno, grazie al crisma del proprio ministero, si arroghi il diritto di investigare nelle faccende altrui, consigliare e ammonire. Permane in loro la tradizionale mentalità tipica in quelle colline che un tempo indusse qualcuno a scrivere sullo zoccolo di uno degli stalli dell'abbazia di Whalley, che dista solo poche miglia da Haworth, farebbe meglio di andarsene a casa a badare ai suoi chi si mischia nei fatti altrui. Ho chiesto a un abitante di un distretto vicino che tipo fosse l'ecclesiastico che si prendeva cura di loro. Mi ha risposto: è un pastore eccezionalmente buono, si occupa dei fatti suoi e non si impiccia mai dei nostri. Mr. Bronte visitava assiduamente gli ammalati e si recava da tutti quelli che lo mandavano a chiamare. Assisteva con diligenza alle scuole e così fece pure sua figlia Charlotte quando fu giunta all'età matura, dando però un alto valore alla loro vita privata. Rispettavano sicuramente quella altrui. Fin dal loro primo giungere a Haworth, usavano passeggiare sulla landa coperta di brughiera che si estende in salita dietro la canonica. Piuttosto che in direzione del villaggio, dalle case scaglionate lungo il ripido pendio sottostante. Una donna ormai vecchia, che si prese cura di Mrs. Bronte nella sua ultima malattia, un cancro interno che prese il sopravvento, spandendosi rapidamente pochi mesi dopo l'insediamento dei Bronte a Haworth, mi dice che in quei giorni i 6 bimbetti erano soliti uscire da soli, tenendosi per mano, e se ne andavano verso la splendida brughiera selvaggia, che impararono ad amare appassionatamente. I maggiori si prendevano attentamente cura dei piccolini, che a malapena sapevano camminare. Erano gravi e silenziose, ben oltre i loro anni, represse probabilmente dalla presenza di una malata grave. Al tempo di cui la mia informatrice parla, Mrs. Bronte era costretta a letto nella camera da cui non doveva uscire viva. Un estraneo non si sarebbe accorto che ci fosse anche un solo bambino in quella casa. Erano creaturine dai movimenti così misurati, così quiete e buone. Maria, 7 anni. Era solita chiudersi nello studio dei bambini con un giornale e leggeva ogni cosa, dibattiti al Parlamento e non so che altro. Era una vera mammina per le sorelle e per il fratello. Non avevo mai immaginato prima che ci fossero bambine così buone. Le consideravo apatiche, erano talmente diverse da tutti gli altri che conoscevo. Penso che in parte dipendesse dal fatto che Mr. Bronte non permetteva che mangiassero carne, non per desiderio di risparmiare, in casa il cibo abbondava, vi era addirittura spreco, ogni cosa essendo in mano di due domestiche prive della guida di una padrona. Ma Mr. Bronte pensava che i bambini debbono essere tirati su semplicemente, e così il cibo principale dei piccoli erano le patate. Non davano l'impressione di desiderare altro, erano proprio buone creaturine. Emily era la più bellina.